Stavolta c'è solo Jack a tenerci compagnia. Io non ho... Ah no, eccolo. Now recording. Eccolo qua. Ah, eccoci qua. Benvenuti, benvenuti al 24esimo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E questa è una... Perdonami se ti interrompo subito, ma ci tenevo a far presente che questa è una puntata più o meno importante, giusto per dire, è l'ultima puntata che registriamo nel 2020 e per voi ascoltatori sarà la prima puntata del 2021. È vero. Quindi buon Natale, buon anno, in ritardo per voi. E... Dai, 2021, anno di vaccini. Sì, sarà un ribaltamento totale, no? Il esatto, mondo, incredibile. Il mondo si aggiusterà. Infatti volevo giusto anche dire che no, per iniziare bene il nuovo anno partiamo subito con questo argomento allegro e... poco controverso. Esatto, poco controverso. Io, tra l'altro, mi stavo giusto chiedendo se Jark registra Craig che entra, quindi forse avremo per la prima volta... La voce sentirete di anche voi quello che esatto. Sentiamo noi. Ma diciamo di che cosa parla questo episodio. Come avrete potuto vedere, leggere dal titolo, che in questo caso è War Never Changes, una citazione alla saga di Fallout, dove questa frase iconica apre tutti i video esplicativi della storia del gioco, di come il mondo sia appunto finito e le ceneri della società riemergono in questo grande Fallout, appunto. Quest'oggi si parlerà proprio di guerra, di, come dire, del conflitto eterno che affligge perché l'unica, sto tirando fuori penso la guerra più lunga della storia. Sì, le guerre puniche fanno un baffo a questa guerra. Di che guerra stiamo parlando, Jacopo? Beh, ovviamente la guerra fra i fan di Fallout 3 e i fan di Fallout Vegas. Quella mi sa che avrà bisogno di un altro episodio. Ci sarà un episodio a parte, sì. Assolutamente. No, allora, in realtà stiamo parlando della console war. Per chi non sapesse cos'è, adesso ci arriviamo, ma prima di andare, diciamo, all'episodio principale, abbiamo un download updates da fare. Ovviamente. Uno. Ci sta. E se Marco vuole fare la rubrica su cosa abbiamo giocato nelle ultime due settimane, perché io non posso farla, dovrò aspettare. Però ok. Motivi. Io neanche io posso farla perché non ho letteralmente giocato a niente nelle ultime due settimane. Quindi... Potevi far finta, cioè che... sono dedicato agli scacchi, sono 1800 punti, no, non è vero. 1800 di Elo, wow, ok. No, vabbè, allora facciamo solamente un download updates. Per chi si stesse collegando giusto ora, magari qualche, non so, qualche archeologo dal futuro, qualche persona che non ha seguito bene la vicenda, qualche giorno fa, tipo due settimane anche più fa, è uscito Cyberpunk. Non ho mai sentito che cos'è, un gioco da tavolo? Beh sì, è un gioco da tavolo, è tante cose. E se cose. Si giochi sulla scrivania, tecnicamente è un gioco da tavolo. E ci sarebbero tante cose da dire su Cyberpunk. Allora, premetto che io non l'ho ancora giocato e probabilmente ha visto più gameplay puro e in come si dice? Non editato, non modificato Marco, di me, perché Marco ha seguito un po' gli stream possibile, del nostro, sì, possibile. Gli stream del nostro associato amico Edoardo, o xbradipox, è vero. twitch.tv/xbradipox. Praticamente, scrivetevi. Le cose che volevo dire velocemente sono queste, che il gioco per i post è uscito in una condizione penosa. Non so in che stato è quando ci state ascoltando. Se ci state ascoltando verso giugno 2021, probabilmente ora è un bel gioco. Però, diciamo, a parte tutti questi bug visivi, bug di animazioni, bug di missioni che non si possono finire, sono un miliardo di bug proprio brutti da vedere, però a parte questi bug solamente visivi o solamente di progressione di una missione, il gioco è proprio non è finito, nel senso, cioè, hanno rilasciato un gioco a cui mancano dei sistemi, mancano sistemi di intelligenza artificiale, sistemi di piazzamento, spawning dei poliziotti in maniera sensata, sistemi di gestione delle gang, cioè tanti sistemi, e anche tanti sistemi lato giocatore, quindi tante possibilità, tante, diciamo, progressioni che erano sempre state mostrate come possibili, alla fine nel gioco non sono state inserite perché troppo dispendiose. Ricordiamo per esempio il fatto di poter hackerare le persone, cioè c'erano tante piccole possibilità, magari in più rami dello sviluppo del personaggio RPG, che appunto portano a questa sensazione un po' diffusa nella community, almeno da quelli che hanno espresso in maniera sensata la loro opinione, senza far venire il cancro Edoardo, che sia un gioco appunto che purtroppo non è finito, che è stato un po' buttato a calci fuori dalla porta. Non so, Marco, tu cosa ne pensi di questo? Ma allora, che cos'altro possiamo dire oltre a questo, riguardo questo argomento? Perché ormai penso sia stato più che esaurito. Esatto, io volevo un po' chiuderlo, cioè, nel senso, volevo fare un overview generale, capito? Ci sta. Ecco, Cyberpunk non è di sicuro il primo gioco che ha fatto questo. No. È un altro di quei giochi che, giusto per informare anche che, sai com'è, vivendo sotto i sassi e che non hanno contatti con il mondo esterno se non attraverso il nostro podcast. Esatto. Che sarebbe un bel esperimento sociale. Giusto per informare quelle persone, Cyberpunk è stato annunciato 7 anni fa, hypato all'inverosimile, e come altri giochi, altri precedenti di questo tipo, alla fine l'hype era talmente tanta, la gente si lamentava così tanto di farlo uscire, che alla fine i developer, per via probabilmente della pressione del pubblico, ci hanno rinunciato a posticiparlo ancora e ancora e ancora, e l'hanno fatto uscire, come dire, con il minimo necessaire, il minimo necessario per dirlo, tra virgolette, più o meno un gioco completo, anche se molto rotto, e adesso poi la gente dice, la gente si sta lamentando. Però diciamo che ci sono più sfaccettature, tipo il fatto che su console, no, certo, su console queste... è talmente male che la Sony lo ha tolto dallo store, sì, che sì. Accetta molti più rimborsi che prima non accettava, la Microsoft pure. Hanno tolto molti store fisici, lo hanno tolto, lo stanno cioè, accettando come reso. Cioè, la performance proprio su console di vecchia generazione è veramente pessima. Quindi c'è anche quel lato. Inesistente quasi. Esatto, è quasi ingiocabile. C'è quel lato della conversazione che hanno detto, ok, perché avete fatto il marketing per queste console che poi non avete per niente curato per queste versioni console? I soldi, ovviamente, perché avete rilasciato questo gioco dove mancano tutte quante queste feature, che è tutto buggato, così crasha quando lo accendi, cioè, perché per i soldi. Però c'è anche l'altra questione, che è il gioco in sé è magari è bello, cioè, nel senso, una persona vero, che lo ha giocato e gli è piaciuto, la sua opinione comunque è valida, perché non vuol dire niente che tu stai cercando di validare il tuo hype per giustificare il tuo acquisto, e questo è un discorso che faremo in questa puntata breve. Cioè, tu stai giudicando un gioco magari in base alla storia, al feeling del gameplay, no? Quindi magari se una persona, per il tipo di stile che ha scelto, non ha incontrato particolari problemi con il combattimento, per esempio il combattimento corpo a corpo non l'ho usato troppo, non ha visto troppe cose strane in giro per il mondo, si è un po' immerso nella trama, no? Perché il motivo, cioè la cosa che io ritengo strana è che CD Projekt Red, che è lo sviluppatore di questo gioco, sviluppatore polacco, come fama è molto, come posso dire, concentrato sulla qualità della storia, della trama, delle quest, del design delle quest. per darti questa illusione un po' di scelta e di conseguenze, eccetera, però anche per proprio darti un'esperienza dei personaggi. Io vi ricordo, cioè, The Witcher 3 c'è un intero episodio di un documentario su internet che si chiama No Clip, solo su una quest di The Witcher 3, sul design di quella quest, per capire quanto pensiero c'è dietro queste quest. Però hai fatto un valido argomento. Il primo è che vorrei espandere a quello appunto della CD Projekt Red, che negli ultimi anni si è fatta conoscere come grandissima casa di sviluppo, principalmente per l'ultimo titolo della saga di The Witcher, The Witcher 3, e in cui ha dimostrato di innanzitutto avere un certo interesse nel portare anche un qualcosa di qualità. Quindi forse anche per questo che si è sentito molto tutti i problemi che ha avuto Cyberpunk in questo periodo, perché con The Witcher 3 ha dimostrato appunto di voler portare un prodotto di qualità al pubblico, e quindi c'è stata, diciamo, questo colpo allo stomaco da parte di tutti i suoi fan, che non si aspettava un gioco così buggato. Però va anche detto che la qualità la CD Projekt anche con The Witcher 3 l'ha costruita, perché se ricordiamo le primissime versioni di sì. The Witcher 3, anche lì a bug non si risparmiavano. Non erano così pieni di bug o così rotte in termini di cose mancanti, però sicuramente anche lì ci sono stati tanti sacrifici fatti verso la fine dello sviluppo, tante cose un po' tagliate. E infatti quello che voglio dire è che se c'è una cosa che si è capito è che la CD Projekt Red adesso sta puntando a fare quei giochi immensi, ma letteralmente immensi, che c'è una quantità di contenuti assurde in un'ambientazione estremamente curata, con una storia estremamente interessante e variegata. Ed è proprio questo che penso che alcuni forse non avevano capito. Cioè, la CD Projekt Red penso si sia capito ormai che si interessa molto forse di più alla storia che al gameplay in sé, perché ricordiamo che anche The Witcher alla fine la storia assurda, pazzesca, gameplay normale, nulla di così straordinario. Per cui c'è anche quello da dire, forse qualcuno si aspettava l'RPG della vita e alla fine ne ha trovato uno più standard. E va anche detto che poi abbiamo visto che con The Witcher 3 la CD Projekt Red poi l'ha continuata a espandere con varie espansioni, con due DLC veri e propri e vari contenuti scaricabili gratuiti. Per cui anche lì c'è da aspettarsi che ci sia un'espansione. Quando l'ho giocato io era appena uscita la prima espansione e avevano un po' cambiato già l'interfaccia. Poi mentre giocavo lo hanno aggiornato ancora e l'interfaccia utente è stata molto più utilizzabile da quel momento in poi. Quindi diciamo sono abbastanza fiducioso che nei mesi lo renderanno un gioco giocabile. La cosa di cui ho meno fiducia è che diventi il gioco che era stato promesso, perché ricordiamo, cioè, il motivo per cui molte persone si aspettavano un giocone è che era stato presentato come un giocone, cioè, e qua si poter arriva al secondo punto che hai tirato fuori, che è estremamente interessante, che sono assolutamente d'accordo con te che Cyberpunk uscirà nel 2021, probabilmente 2022 è quello che stiamo avendo adesso, è una open beta praticamente. Però come hai detto tu, è questo nuovo trend del no, e lì, cioè, io posso solo azzardarmi, posso solo, come dire, intuire che sia così, non ho nulla a riprova di questo, però mi viene molto da sentire che sia questo quando la parte più di creativa e di design del team si scontra con quella più di marketing e di corporazione, no? Per restare in tema di Cyberpunk, in cui gli investitori vogliono che ci sia questo hype, vogliono che la gente si interessi al progetto, e facendo promesse anche che magari uno che più addetto al design del progetto non andrebbe troppo a dire in giro, magari subito appena si sentono dire nel team di sviluppo. E credo che questo ci, giusto prima di passare all'argomento principale della puntata, penso che questo sia l'esempio lampante di quello che secondo me purtroppo ci dovremo aspettare anche nei prossimi anni, perché secondo me ci saranno sempre forse di più giochi, magari in maniera molto più ridotta rispetto a questi, perché questo è un altro di quelli che è stato estremamente hypato, questo, siamo sinceri, è la versione 2.0 di No Man's Sky, no? Che è stato hypato. No Man's Sky era il primo. Era un gioco più piccolo, era il primo gioco che facevano, più praticamente... No, cioè dico che la storia sia diversa, ok, però di base è quello, cioè un gioco che è stato talmente hypato, c'era la gente che mandava minacce di morte agli sviluppatori per farlo uscire, eccetera, eccetera, e poi quando hanno detto ok, ve lo diamo, la gente ci è rimasta male. E penso che purtroppo questo processo ce lo dovremo aspettare ancora di più in futuro. Io penso che sempre di più, purtroppo, adesso i giochi diventeranno che usciranno non finiti e poi le case li patcheranno, li svilupperanno. E come dire, già una cosa che si è vista già un po' in giro, c'è stato, oddio, qual è stato quell'altro che ha fatto scalpore poco prima di Cyberpunk, è uscito quest'estate, se non sbaglio. Che tipologia di gioco era? Mannaggia, mi sembra fosse un gioco anche online, può essere? Quello che lo hanno tolto dal mercato dopo che è uscito? Non mi sta venendo il titolo, mannaggia, aiutami. Crucible? No. No, Crucible era brutto. No, quello è stato proprio bidonato da Amazon, mi sembra. Sì. No, c'era un altro gioco che adesso mi sta sfuggendo, ma che avevamo avuto queste lamentele che... no, forse sto pensando a Fallout 76, così, giusto per dire un nome. Esatto, già quello ci sta di più come paragone, no, è vero. Forse stavo pensando a quello lì. Vabbè, comunque, quindi, il discorso volevo dire buon Natale e la merda purtroppo continua a esistere. Perché il discorso volevo dire un aneddoto che un certo William Gibson ha scritto su Twitter... Aspetta, Marco, non dire chi è. Ha scritto su Twitter, ha retweetato una recensione... un po' negativa di Cyberpunk, dove dicevano sì, al di là di tutti quanti i bug eccetera, comunque il gioco non è interessante, e uno sotto gli ha risposto: si vede che il gioco non fa per te. Ora perché Marco si sta collassando? Perché William Gibson è il tizio che ha scritto Neuromancer, che è il romanzo che ha creato il genere Cyberpunk. Mannaggia miseria. Non è il suo genere, amico. Non fa per te. Sarà quello. Comunque, vabbè. Cato, non la sapevo. Questa non la sapevi, ti ho stupito. Ti ho ricacciato questa. Mi spiace tanto, signor Gibson. va bene. Non curarti di loro, ma guarda e passa. Vabbè. Bene, a te caro, ci siamo. E quindi, in questa giornata con un cielo che sembra sintonizzato su un canale morto, direi di passare... direi di passare all'argomento principale della puntata, Jacopo. E perché abbiamo deciso proprio quest'oggi di parlare della console war? Perché abbiamo, signore e signori, qua in questo podcast, qualcuno che ha provato, un soldato, uno che è entrato, che è andato nelle trincee, no? E ha guardato in faccia, come dire, i due fronti di questo scontro. Ma andiamo con ordine. L'abbiamo forse già iniziato un po' a dire, ma che cos'è la console war, Jacopo? L'abbiamo iniziato a dire? No, mi sa di no. Non abbiamo neanche accennato. Allora, la console war è, come dice il nome, una guerra combattuta principalmente sui campi di battaglia di internet, questi giorni, del web. Però ai miei tempi si combatteva anche sul cortile dell'asilo o delle elementari o delle medie. Le battute ai miei tempi si sprecheranno, mi sa, tempi. Dove praticamente, cioè qual è il concetto? Ci sono due fazioni di solito, perché vabbè, la terza poi ci arriveremo a parlarne, la fazione PlayStation o la fazione Xbox. Una volta erano diverse le fazioni, ma i concetti più o meno erano gli stessi. C'era una fazione che diceva l'Xbox è meglio, siete stupidi. L'altra fazione diceva il PlayStation è meglio, siete stupidi voi. e avanti e indietro così. Si usano numeri, si usano delle altre, insomma, come posso dire, altre caratteristiche, altre opinioni, altre tesi a supporto, insomma, tutto per dire io sono più bravo di te, io sono meglio di te perché io porto questa squadra e tu porti quest'altra squadra. Ora, sembra che l'ho un po' ridicolizzata. Sembra! Sembrerebbe che l'abbia un po' ridicolizzata. Perché in realtà la console war esiste... Perché esiste? Cioè, non dovrebbe esistere, perché Xbox è meglio, e voi siete stupidi. Però perché esiste? Perché essenzialmente uno... Vabbè, a parte il discorso magari della squadra, no? Della squadra di calcio, io tifo per una squadra, non importa gli argomenti di chi porta un'altra squadra, non c'è nessun motivo per portare una squadra piuttosto che un'altra, se non che porti quella squadra, cioè... Non conosco molte persone. Dici che... l'equivalente quasi degli hooligan nel, più o meno, nel sì, calcio, sì, inglese. Ma anche non hooligan, cioè semplicemente io porto l'Inter, porto la Juve, porto... Non c'è un motivo. Io il motivo per cui portavo l'Inter da piccolo era perché nessuno portava l'Inter, quindi dicevo, cavolo, io voglio essere sei la per parte quello, debole. No? Sei esatto, per l'underdog. Sono... Esatto, sono sempre per l'underdog, per il... Esatto, il quello che deve un po', Perché ovviamente un'agenzia, cioè un'azienda multi da più milioni di euro e un sacco di ricconi che calciano un pallone ha bisogno del mio supporto, perché poverini, tutti quanti la prendono per il culo. Comunque, beh, l'idea è che io, ok, sono un po', capito, tribalismo, eccetera, sono per questa cosa, tu no, allora ci dobbiamo scontrare, allora tu sei scemo, no, devi venire dalla mia parte, però... Questa è solamente una delle cose, delle questioni, quella che sembra un po' più scema. In realtà ci sono questioni più legittime, secondo me, quindi volevo prima parlare un po' di quelle. Le uniche questioni legittime che mi sono venute in mente sono che io ho acquistato questo prodotto per i miei motivi e voglio avere una discussione con altre persone per convincerle che questi motivi sono validi. Per difendere il mio acquisto, difendere i motivi perché ho fatto questo acquisto e allo stesso tempo convincere altri a fare lo stesso acquisto con i miei motivi o con altri motivi. Perché quando succede questo, cioè l'ecosistema, no? la base di giocatori che gioca con questo sistema, che gioca in questo network, aumenta e quindi i prodotti migliorano. Una volta, ovviamente, quando non c'era l'online, era solamente un discorso economico, più persone hanno una console, più soldi ci possono investire gli sviluppatori, i produttori. Adesso è anche proprio un discorso di online, più persone giocano sulla mia piattaforma e più magari è equilibrato un gioco online, è divertente e così. Neanche questo è più tanto vero, però questo argomento un pochino potrei accettarlo, nel senso che dici... Non è una cosa completamente tribale, completamente senza cervello. C'è un motivo dietro. Il problema è che spesso è stupida. Cioè questo ho voluto mettere avanti... Penso che questa frase possa riassumere l'esistenza umana, credo. Cioè semplicemente a volte io per partito preso, perché sono, diciamo, legato emotivamente come ricordi, come nostalgia, o sono... legato come franchise di giochi, o sono legato perché i miei amici ce l'hanno, e a me non me ne frega un cazzo, questo è meglio e basta. Non è perché io riconosco i miei gusti e li conosco e quindi ho comprato una cosa che si lega a quei gusti, o che è migliore magari oggettivamente sotto altri punti di vista. È semplicemente che, faccio un esempio, io sono cresciuto con Xbox, cioè io ho sempre avuto Xbox, prima la prima, poi la 360, poi adesso la serie X. Io sono legato emotivamente ad Halo, per me cioè, è una cosa proprio, riconosco, quasi irrazionale. Cioè non c'è magari un motivo per cui dovrei avere un Xbox, però Halo, non lo so, cioè, porco due. In realtà c'è un motivo, però poi ci arriviamo. Quindi... Ci può questo sempre questo però... foreshadow per gli spettatori. Esatto, foreshadowing. Questo volevo fare un po' di flaming generale a tutti. Però io non sono, cioè non voglio fare flaming sentendomi superiore, cioè io sono tra queste persone idiote che dicono se come una PlayStation sei scemo, cioè c'hai il formaggio in testa, non so come si dice. Okay. Non è vero, però sì. Quindi tu mi stai dicendo che, come per qualsiasi forse altro aspetto dell'esistenza umana, qua andiamo già sul filosofico, ciao Salla, cos'è? Alla fine mi stai dicendo semplicemente che gli esseri umani amano formare i gruppi, no? Avere usare qualsiasi pretesto per potersi creare queste tribù tra amanti della PlayStation, amanti dell'Xbox, per farne una, per fare un esempio. Boxari e sonari, no? Esatto. Sì, giusto per dire che anche questo istinto non ha mancato di arrivare nel campo videoludico. Quindi, esatto. Ora che il nostro pubblico sa cos'è la console war, chi sono gli eserciti che combattono su un fronte e sull'altro, sa anche dove siamo. Aspetta, io mi sono confessato, io ho messo avanti le mie origini. Allora, io in realtà ho avuto anche una PlayStation 1 da piccolo, quindi sono anche legato a quell'era lì, però vediamo ora. Io ho detto questo, no? Ho messo avanti il mio bias, no? Cioè la mia come possiamo dire in italiano, la lente attraverso cui vedo il mondo, certo, una lente verde. Tu hai raccontato la tua infanzia con l'Xbox. Esatto. E se andiamo su questa, come dire, su questo metodo per schierarsi, e io temo di essere un po' la Svizzera anche in questo confronto, perché io da quando memoria sono sempre stato un Nintendaro che non me l'aspettavo. Quindi così, per cui diciamo che sono Nintendo che, come diremo più avanti, è un po' esclusa dalla guerra in generale tra le due grandi console. Dopo, certo. È quello. Però invece io tendo, se dovessi schierarmi da una parte, io sceglierei invece la Sony con la PlayStation. Okay. Quindi questo podcast è l'equivalente di Romeo e Giulietta tra di... No, cui forse è finito perché non possiamo più. In cui forse anche membri di fazioni opposte possono convivere in pace e non credo parlare proprio di stronzate ogni due domeniche. Che Wibu che sei, che tutte console giapponesi. Lo so. Anti-occidentale. Innanzitutto vorrei dire, tra PS5 e Xbox facciamo un attimo di comparazione. Ah, usiamo le statistiche? Esatto, la console che ha venduto di più in queste feste è stata lo Switch. Cioè, tutti quante le classifiche che vedo, cioè lo Switch, Nintendo Switch continua a vendere tantissimo, ma tanto, cioè, è esplosa quest'anno. È quello, la Nintendo forse è quello, il punto è quello, la Nintendo sta fuori dal conflitto perché sa che proprio se li schiaccerebbe tutti se nel conflitto. Cioè, è un po' a parte perché volevo un attimo togliermelo adesso, cioè lo Switch o in generale tutte le console Nintendo, io le chiamo il o lo Switch perché per me Nintendo è maschile in italiano. Cioè nel senso, se tu dici la Nintendo è l'azienda, se dici il Nintendo è la console Nintendo. Non so perché. E io l'ho sempre chiamato al femminile perché è la console Xbox. Lo so, infatti ha senso, infatti le altre purtroppo per finire. Però io questi... ho questa cosa mentale, quindi è naturale. Questi... Comunque, questi dettagli di non linguaggio, lasciamoli a Kojima i dettagli. Quest'anno Nintendo Switch ha venduto milioni e milioni di copie perché è uscito Animal Crossing New Horizons. Infatti qui c'è la tabella che ha messo Marco nella pagina di OneNote dove c'è tutte le specifiche hardware, no? La CPU, il processore, no? Le cose, SSD, di PS5 Xbox, e poi c'è Nintendo Switch, Animal Crossing, come unica specifica hardware. Però è vero, cioè, è vero. Nintendo si è sempre concentrata più sui giochi, quindi il portare avanti giochi che spesso vendono un sistema, no? Cioè tu compravi il Wii perché c'era, che ne so, Mario Galaxy o Wii Sports o quello che è. Compravi la Switch perché o lo Switch perché c'è Mario Odyssey o Breath of the Wild o in questo caso Animal Crossing. Però l'altra cosa su cui si sono sempre concentrati è una gimmick, cioè un qualcosa di strano che ha questa console nuova. Cioè non è mai uguale a quella precedente, o è molto piccola, è tipo un cubo, o c'ha i controlli tipo a telecomando che puoi muovere, o c'ha un controller a forma di banana per persone con mani strane, o c'ha... cioè c'ha sempre qualcosa in più, no? C'ha i bonghi. C'ha i bonghi. Comincio a vedere un pattern. Prossima console sarà, non so, una liana probabilmente. No, io la Nintendo l'ho sempre ammirata per questa sua mossa furbissima, cioè che lei l'ha proprio evitata la console war, perché se ci pensiamo Microsoft e Sony si combattono tra di loro perché hanno, come dire, cercano di conquistare la stessa terra, no? Per fare metafore guerrigliere. In realtà non più, cioè un po' di meno adesso. Esatto, però, esatto. Però in questo... generale sì, sono più o meno lo stesso. Beh, la guerra, diciamo, è partita da lì, che poi volevano conquistarsi quella parte di pubblico. Mentre in Nintendo, avendo avuto sempre, come dire, questa idea di essere a sé stante come cosa, un pubblico diverso, un genere di giochi diversi, e uno alla fine non si chiamava mai... Cioè, il punto era quello. Alla fine, se ci pensi, in molte delle case che conosco io, la cosa era... Ogni bambino doveva scegliere tra avere una PlayStation e la console Nintendo, oppure un Xbox e la console Nintendo. Era questo il punto, la console Nintendo era sempre quel qualcosina in più, quel qualcosina di diverso che alla fine lo prendevi sempre perché era una cosa unica, esclusiva e soprattutto era anche, come dire, forse più abbordabile, più economica rispetto alle altre non, e poteva non essere proprio, a volte, a volte. E quindi era sempre quel qualcosa in più che, come dire, uno non escludeva mai dal comprare per prendere qualcos'altro, perché era unica e irripetibile, era unica e inimitabile. Sì, cioè non andava a competere sulla grafica, su, capito, esatto, queste cose. Era un po' anche per quanto effettivamente dicevi, statistiche hardware, se le mettiamo a confronto con le console, adesso forse la Switch è già di precedente generazione rispetto a questa, anche il fatto come che sono potenza un po'... è difficile da anche perché sono scordinate nelle uscite, però se mettiamo a confronto, cioè la Switch è il tostapane rispetto a queste altre. Ah no, rispetto alla nuova generazione, a quella corrente, sì, rispetto magari a PS4, Xbox One aveva delle cose simili come architettura, però era molto molto molto meno potente, ma molto però... meno potente. Però poi ricordiamo che era uscita anche ben dopo, se non sbaglio, la PS4 e è uscita, sì, tre anni dopo le altre. E c'è anche questa cosa qua strana di, come dire, con queste console poi tra un'uscita Sony e Microsoft esce una della Nintendo, così, tanto per... Comunque sì, diciamo, per chiudere un attimo il discorso, abbiamo tre filosofie che volevo presentare per poi lasciar perdere un po' quella Nintendo, che erano più... Nintendo ha come mente appunto questa filosofia di videogiochi come giocattoli quasi, ma intesi proprio come cose mirate, almeno apparentemente, ai più giovani. Quindi sono un po' come la Disney, no? Del panorama videoludico, perché hanno questi franchise che sono dei colossi. Hai fatto un paragone perfetto, probabilmente. Che curano talmente tanto, che ci perdono talmente tanto tempo a pensarci, a preservarli, e così... che a volte rimangono un po' indietro come innovazione. Però in alcune serie ci tengono talmente tanto, sono talmente tanto attenti a preservare la qualità, che poi escono dei lavoroni, tipo Odyssey. Vero. O Breath of the Wild, ancora meglio. Mm-hmm. Quindi questa altre serie, invece, come i Pokémon, purtroppo... Rimangono nella polvere. Invece PS5 e Xbox... sono più concentrate in altre in altre cose, cioè in un'altra visione dei videogiochi. Cioè, diciamo che Xbox è sempre stata pubblicamente quella che ha più premuto per dire i videogiochi sono arte, i videogiochi sono una cosa che ci unisce e tutto, però a livello proprio di cioè quello che hanno fatto in questa generazione purtroppo è stato più i videogiochi sono un servizio purtroppo. La PS5 invece è stata quella che un po' ha portato più il valore di una produzione blockbuster, no? I videogiochi sono come un evento, no? Sono una cosa, cioè, mentre magari Xbox ha più cercato di curare il lato dello sviluppo, quindi gli indie, porto gli sviluppatori, strumenti per gli sviluppatori, servizi, cose così, la Sony su quella è rimasta un po' più indietro, però ha sempre portato avanti la qualità, il valore di una produzione come God of War, come c'è, ha sempre portato un po' avanti quel discorso, no? Fin dal... È molto, molto giapponese in questo, che, come dire, c'ha degli standard molto, molto alti, ma questo poi preclude l'accesso a molte... a molti possibili sviluppatori, perché, come dire, sì, è un po' un club esclusivo quasi. Sì, sì, più o meno. Invece Xbox è sempre stata più per lanciare tutto sul muro e vedere che cosa ci rimane appiccicato. Molto all'americano. Si sentono le filosofie delle case di sviluppo, in effetti. Esatto. Ok, direi che questo è un po' l'introduzione, adesso parliamo un po' più del perché stiamo facendo questo episodio, ovvero quest'anno a novembre sono uscite le nuove console, yep. PS5 e per chi si aspettava una struttura di nomi normale, Microsoft è rimasto deluso, ma il lato Microsoft sono uscite le Xbox Serie X e Serie S. Ricordiamo anche che comunque Windows è partito dal 97, 98 e poi siamo al 10 adesso, quindi no, però passando per XP e Vista. Volevo un attimo citare un film che sicuramente il nostro unico ascoltatore Salla riconoscerà, ovvero Real Steel con Hugh Jackman, il film dove lui allena un robot pugile. Ah, è vero. E con il figlio. Molto carino come film, a me è piaciuto, anche se so che a molti ha fatto cagare, però c'è una scena dove stanno in una specie di arena e uno degli sponsor è Xbox 720. E io lì è... No, cioè... Perché una volta, capito, ci si illudeva che avessero qualche senso i nomi, invece no. Cioè, Xbox 360, Xbox One e Xbox Serie X e Serie S. Quindi queste... Parliamo un attimo di Xbox Serie X e Serie S. Perché si chiamano così? Cosa sono? Quindi parliamo un attimo... Allora, Xbox ha fatto, negli scorsi anni, due diverse categorie di console. Xbox One, che poi è stata sostituita dalla One S... ovvero una console base, la console che aveva le stesse capacità fin dal lancio, quindi quando è stata lanciata era così, aveva quelle potenzialità, aveva quella potenza hardware. Uh-huh. La versione S è semplicemente più piccola, ha il alimentatore, quella cosa dove si attacca la spina, ce l'aveva interno, quindi non aveva un mattone fuori come la 360 e la prima One, e quindi era molto più piccola, c'era solo un cavo, era carina, bianca, molto più pare anche più silenziosa, piccola, eccetera, e la cosa importante è che aveva il lettore Blu-ray 4K e l'HDR. Poi dopo vi spiegavo tutti questi nomi che stiamo dicendo, dopo ci arriviamo, però dopo di questa hanno fatto un'altra che era la One X, quindi One S era quella piccola, One X era più piccola, ho detto che cazzo vuol dire allora la X, però era anche molto più potente della One S. Questo perché c'è stata una nuova invenzione, che in realtà non è una nuova invenzione, l'ha fatto pure la Nintendo tante volte, l'ha fatta anche la Sega una volta, ovvero si chiama la mid-gen, che vuol dire che a metà di una generazione di console, quindi una generazione sarebbe gli anni, no? Che una console viene commercializzata, che è quella principale di una casa, quindi che ne so, dal 2013 al 2020 è stata la generazione della PS4 e della Xbox One. Nel 2016 e nel 2017 sono uscite la PS4 Pro e la Xbox One X, ovvero due versioni della stessa console ma più potenti. Quindi, cosa è successo? Che la gente che aveva l'Xbox One X poteva giocare a giochi tipo Forza Horizon, così, a 4K o a 60 fps. I giochi tipo, che ne so, Spider-Man su PS4 Pro giravano a 4K, cioè potevi giocare a risoluzioni più alte, perché 4K è la risoluzione, no? È quanti puntini ci sono sul tuo schermo, quanto è adesso, vabbè, gli ascoltatori poi si attaccano con col cazzo a questo punto. Scusate, ascoltatori, ma attaccatevi. Attacca al cazzo queste cose, non possiamo spiegare ogni terminologia, però essenzialmente è questo. Quindi sì, diciamo, è la stessa tecnologia, famiglia, barra livello di potenza, però un po' di più, non ancora quella successiva, l'evoluzione, metà, ma qualcosina in più. Cioè fa le stesse cose che fa un Xbox One, gli sviluppatori dovevano programmarle nello stesso modo i giochi, perché era la stessa architettura più o meno così, però un po' poteva spremere di più, poteva mandare più pixel, per dirla in maniera semplice. Stessa cosa per PS4 Pro, anche se è un po' più scarsa della One X. E non aveva il lettore 4K Blu-ray, eccetera, che non gliene frega un cazzo a nessuno. Però è, per qualche appassionato di cinema era una cosa rilevante da dire, non lo so. Che è successo quindi? Che la Microsoft ha detto stiamo vendendo ancora un botto di Xbox One S, perché comunque costa poco. C'è la versione digitale, la cosiddetta Xbox One SED, perché è S all digital, all, tipo all digital, sì, quindi è SED, triste. Io avrei licenziato quello che ha creato il nome, ma No, ma l'hanno fatto apposta, cioè hanno fatto un video meme dove ci sono i designer alla Microsoft, quelli veri, cioè non un video meme di altri, cioè la Microsoft ha fatto un video per il culo, Microsoft, dove creavano la Xbox One SED semplicemente cancellando lo slot del lettore Blu-ray dalla One S, cioè prendevano il cancellino su Paint e lo cancellavano. Va bene. Perché in realtà è quello che è, cioè è l'Xbox One S e hanno tolto il lettore Blu-ray, fine. E l'hanno venduta a 50 euro in meno. Ci sta. Però ci sta, cioè è una console comunque 200 euro, c'hai dentro Netflix, tutti quanti sti cose di streaming così, un sacco di giochi, Game Pass, ma poi ci arriviamo. Quindi hanno detto, stanno vendendo ancora tanto queste Xbox One S, ma perché non facciamo direttamente entrambe? Cioè, perché non facciamo direttamente sia la console... Why not both? Esatto, sia la console base che la console per i fanatici che non, tanto non ci fanno un cazzo, però vogliono avere quella più potente. Mm. E quindi hanno fatto direttamente la serie S e la serie X, e secondo me hanno detto chiamiamola serie X e serie S per confondere i consumatori, no vabbè, perché così ne facciamo altre, cioè forse secondo me l'idea è che questa sarà l'ultimo nome, quindi faranno da ora in poi faranno nuove serie X, nuove serie S, come se fossero degli iPhone, no? Cioè ci saranno nuovi iPhone Max, cioè ci sta, però quindi mi stai dicendo che però è questa la confusione, è quello, cioè non ha un, tecnicamente questa nuova Xbox è non serie. Ha un nome, perché il serie. Nome è Xbox, è la nuova Xbox serie, sì. E praticamente hanno resettato di nuovo il conteggio, perché ha detto questo, hanno dato un nome alla serie ma non hanno dato un nome all'Xbox, cioè è un tentativo di dare continuità al, quindi stai dicendo che Xbox One, però non potevano chiamarla Xbox One nuova X nuova S, secondo me hanno detto da oggi in poi vogliamo far sì che la gente pensi a Xbox come un unico nome, e poi ogni tot anni ne esce una nuova versione per quelle due linee, cioè o la linea economica o la linea premium. Ok, però cioè, il punto è che anche, anche gli iPhone hanno il numero dietro, quindi è solo quello che dà fastidio, ma vabbè. Eh no, sì, infatti non ha senso. Però questo quelli... è spiegare il loro ragionamento, che è un ragionamento perdere. Sbagliato, cioè hanno confuso. Perdere. Cioè, potevano fare tante cose, ma ormai hanno cambiato nome talmente tante volte che se... Cioè, ora chiamavi davvero Xbox 720 e tornavi... Ora chiamavi, non so, Xbox Infinity, Xbox... che cazzo ne so? Cioè, non lo so. Comunque, vabbè. La nuova Xbox. 5 euro, diciamo, per gli ascoltatori. Scommetto 5 euro con Jacopo che la prossima Xbox sarà, tipo, Xbox 2. Cioè, ricominciano da capo. Questa è Xbox 2, serie okay. XX, cose del genere. Ok, io scommetto 5 euro che non si chiamerà in nessun modo la prossima Xbox. Sarà non solo X. No, no, non avrà un nome. Quella... Scusi, lei cosa vuole comprare? Quella... La console. Quella che fa... Si chiama solo la console. La console. Comunque, vabbè. E questa, diciamo, è il nome, per fare un veloce. Invece della PS5 è un nome che è PS4. E quindi la PS4... Su quello non si può dire niente. Cioè, i giapponesi sono precisi, sono puliti. Dopo il 4 c'è il 5, fine della storia. Cioè, si diceva che la PS4 non potessero chiamarla PS4 perché in cinese... Cioè, poi sì, non c'è la storia della superstizione del 4, sì, ma chi eccetera, ce ne frega, eccetera, no? Cioè, adesso viene Xi Jinping a ammazzarmi, però PS5 non c'è problema, fai il logo, la chiami col 5 che è maggiore del 4, tutti capiscono, PS5 Digital, che cos'è? È una PS5 digitale, non c'ha il lettore, tutti capiscono che cos'è. E Xbox no, non no, vabbè, nomenclatura a parte, esatto. Andiamo a parlare effettivamente di cosa sono questi nuovi Xbox. Sono allora la Xbox Serie S, ne parlo velocemente perché non ce l'ho. Ho solamente un attimo, mi sono solamente un attimo informato su internet. È una console molto piccola, è veramente piccola, piccola. Cioè, mi sa che è grossa come un Nintendo Switch, ma solo più alta da quello che ho visto. Se ho visto bene. O perlomeno io ho visto un youtuber che ha un nanetto e ce l'aveva lui in mano e sembrava normale. Quindi ho detto, ah, si vede che è molto piccola. È una console molto piccola perché non ha un lettore Blu-ray. Il design è completamente custom, cioè è completamente fatto apposta. Quindi non è come la Xbox One S che è fatta per avere il Blu-ray e poi tolto. E non è come la PS5, no aspetta, la PS5 è al contrario, poi ci arriviamo. È fatta apposta per avere poco hardware dentro, non c'è bisogno di essere raffreddata molto, eccetera. Perché? Perché anche l'hardware è più scarso. Cioè, la serie S rispetto alla X è meno capace, cioè non riesce a, proprio di design, non è fatta per giocare giochi in 4K, o c'è cioè, risoluzioni molto alte, eccetera. Cioè, può farlo, nel senso che alcuni giochi lo fanno, però serve molta ottimizzazione, sono giochi un po' più ottimizzati, un po' meno complicati da mostrare, tipo Ori, c'è la modalità 4K, o anche 120 frame al secondo, che sono, vabbè, la fluidità. Però l'idea di marketing sarebbe, questa è una console più economica, che è fatta per giocare a 2K o più realisticamente in realtà dovrebbero dire 1080p, perché molte persone ancora non hanno schermi 4K, quindi ci sta. La cosa bella però è che a parte questo, cioè a parte la risoluzione, in realtà il resto è uguale, cioè ha lo stesso processore o quasi, ha lo stesso identico SSD, ha una quantità di memoria relativa ovviamente alla risoluzione, quindi un po' più bassa, ma comunque è buona. Ha comunque lo slot di espansione per l'SSD, cioè comunque è una console in tutto e per tutto. È una console nuova in tutto e per tutto, cioè è proprio una nuova architettura, un nuovo paradigma, cioè hanno cambiato talmente tante cose dentro, e poi ci arriviamo, che si possono proprio creare giochi in maniera diversa. Poi ci arriviamo a parlare di questa cosa quando finiamo questo discorsone con la PS5. Andiamo un attimo alla Serie X, che è quella che ho io. Perché ricordiamolo, quello che avevo accennato prima, che come dicevo, uno dei due presentatori di questo podcast è stato un soldato nella battaglia su entrambi i fronti, e Jacopo è possessore sia di un Xbox Series X che è una di una PS5, e oggi ci porta la sua esperienza. Esatto, lui ha toccato con mano di premere F5 su Amazon finché non usciva la pagina. Quindi, esatto, io ho avuto serie molto culo. X. Ho avuto molto culo perché l'ho trovate entrambe a casaccio. La PS5 non ho idea di come sia qui, perché ero convinto che un euro mi stesse prendendo per il culo quando non ho detto che c'era. Però la serie X è qui, è arrivata il giorno del lancio, e è un mattone nero, praticamente. È un cubo, un monolito, cioè è tipo un 2001 Odissea nello spazio. Questo monolite, questo blocco di ossidiana. Eri davanti la console con il controller in mano a sbatterlo per terra, esatto. E poi lanciarlo in aria. La cosa che la salva è il verde, cioè sopra, sulla ventola che c'è sopra, c'è un po' di pittura verde nascosta dentro i buchi della ventola, i buchetti, che quando la guardi di lato, o magari quando entri in una stanza così che la vedi dall'alto un po', la fa apparire improvvisamente, cioè tu entri, qui non c'è nessuna console, poi vedi, oh cazzo, c'è una console lì, anche tu magari. Sì, sì, vero. Questa cosa di design si era sentita, molto chic, molto fancy. A me il design è piaciuto istantaneamente, devo dire, è una delle poche console che l'ho vista, ho detto, cazzo, bella, perché di solito la mia prima reazione è, cazzo, che schifo, quando ho visto l'Xbox One, quando ho visto la PS4, cioè ogni volta la reazione è stata, wow, che schifo. Forse le 360 ero un po' indeciso, poi alla fine mi è piaciuta, però alla fine insomma ti piacciono lo stesso, ci passi del tempo e ti innamori con loro lo stesso, quindi è qui, la sto guardando in questo momento, la sto indicando anche se voi non vedete dove sto indicando perché è un audio, e niente, cosa dire a livello di hardware, posso dire dei nomi che non tanto, cioè, non sono importanti, perché mainframe. Ricordiamo la frase che ha detto Marco la scorsa, quando abbiamo preparato questa puntata, non è quanti teraflops hai e come li usi. Teraflops è un nome che serve a indicare quante operazioni puoi fare al secondo, vabbè, ma non ci interessa. Ethernet. Ethernet. Così, nomi a caso, per dare un po' di qualcosa in pasta al pubblico. Porta USB. Già. Per fare comunque un overview generale, diciamo che in un vuoto, cioè senza considerare la PS5, l'esistenza del PS5 per un attimo, l'hardware mi piace molto, è molto capace come console, cioè considerate che questa console ha più capacità hardware del mio PC, della mia scheda grafica che ho pagato tipo 1300 euro un anno fa. È veramente, cioè, una bestia, una belva, venduta a prezzo ridicolo per quello che è, perché viene venduta a 500 euro, ma roba che c'è dentro costa 1000 euro, una cosa del genere. Cioè, fare un computer equivalente costa tantissimo. Che dire, a livello hardware, altre cose da dire sono che il pulsante è una delusione, il pulsante di accensione, perché è lo stesso. Hanno staccato il pulsante di un Xbox One X e l'hanno messo qua. Fa lo stesso rumore, è lo stesso pulsante, lo stesso... Siete che avevano dei fondi di magazzino. Sì, sicuro. Dietro le prese sono diminuite per risparmiare soldi, quindi non c'è più la presa ottica di uscita o presa HDMI d'entrata, cose così, quindi se avevate cose del genere sono sparite. Io non le usavo, quindi sti cazzi. Altre cose, il controller è rimasto uguale, ci arriveremo, perché questa è una delusione. È un controller... Vedi molto... pure che si può usare proprio il controller delle vecchie sì. Serie, se non sbaglio, no? Si può usare il controller di Xbox One, che è buono perché hanno fatto dei controller bellissimi con la serie 2 dell'Elite Controller, che sono veramente ben costruiti e resistenti. E questo è anche un plus, perché puoi fare anche il contrario, cioè se tu hai un controller nuovo puoi usarlo su quelle vecchie. Ha delle novità al controller, nel senso che hanno aggiunto delle caratteristiche che erano nelle serie Elite dei controller più costosi, quindi hai tipo i grilletti che hanno una specie di come posso dire, di, cioè quando la tieni in mano resistenza è più, sì, no, ti come posso dire, cioè riesci a prenderli meglio, hanno una... hanno un grip migliore. Esatto, hanno un grip, anche dietro il controller c'ha questo grip migliore, ha anche un D-pad, cioè la croce direzionale migliora, molto migliorata rispetto a quella che c'era prima sui controller standard. Perché funziona e non rispetto funziona, come esatto. Quelli del 360. Quelli vecchi. Che altro? È leggermente più piccolo perché ha le mani non enormi, che fa sempre piacere dopo il Duke, che era il controller mostruoso della prima Xbox. E ha un pulsante share, che se lo premi fa uno screenshot e te lo manda sull'app del telefono, oppure anche una clip di 30 degli ultimi 30 secondi che hai giocato, se lo tieni premuto, che è molto comodo in realtà. Farlo così velocemente lo rende più immediato. Mi fa piacere che l'abbiano copiato dalla Sony, come cosa. perché la Sony ce l'aveva già sto pulsante prima. Comunque, vabbè, a livello hardware è questo, cioè... Non ho molto da dire perché appunto mi piace il design, mi è sempre piaciuto, il controller è rimasto praticamente identico se non un po' meglio di quello prima, è molto silenziosa, molto fredda, cioè relativamente fredda, sì, direi silenziosissima e ottima, è proprio un piacere averla qui. Prima di passare ai giochi che ci sono, eccetera, che magari facciamo un po' come riassunto finale i giochi che ho giocato su entrambe. Aspetta, vuoi finire prima questa oppure passiamo alla PS5? Cioè, vuoi fare finisco a parlare di tutto quanto quello che ho da dire su questa, oppure prima parliamo un attimo dell'hardware di PS5? No, facciamo hardware e poi giochi, perché penso okay. Siano due argomenti abbastanza separati come concezione. Ok, allora finiamo di parlare di hardware e passiamo alla PS5. La PS5 è un diffusore, è come non so, cioè entri in una stanza è console di videogiochi e termosifone insieme, cioè l'evoluzione. No, allora, mentre ti dicevo prima, cioè tu entri e l'Xbox non la vedi, poi dopo un po' vedi il verde, oh wow, c'è un Xbox lì. La PS5 apri la porta e ah cazzo, c'è la PS5 lì in quell'angolo, cioè è il contrario di Waldo praticamente, cioè si fa vedere... Ah, proprio... ma c'è una stanza intorno a questa PS5. Esatto. È enorme, è veramente gigantesca. Diciamo che come volume è simile all'Xbox, però è distribuito male, cioè è tutto in altezza, tutte curve strane e così. Mi ha fatto schifo da appena l'ho vista, cioè quando l'ho vista mi sono messo a ridere. Quando l'hanno presentata, però è talmente, cioè mi ha fatto schifo, però mi sono anche innamorato, cioè talmente mi ha fatto ridere quando hanno messo il tipo alto 1,60 m di fianco a questa esatto che non riuscivo a tenerla in mano quasi, ed è ridicola, ma non perché dici ok, cioè a me il design sembra un po' troppo spinto, magari cambierò il colore delle due, aspetta poi ci arriviamo. Magari il design è un po' troppo spinto, però cioè la versione di questa console con il lettore disco è fatta dopo, cioè volevano certo. Farla solo digitale, hanno detto però manca il lettore disco, vabbè mettiamolo qua e beh, c'è tipo una gobba, cioè è un pensiero che hanno avuto dopo e si vede, cioè è veramente strano da vedere come console. È molto grossa, come ho detto. Secondo me se la apre tipo attaccato col chewing gum, dove devo metterlo perché non l'avevano pensato. Ah sì, esatto. È molto difficile da tenere in piedi come console, nel senso che qualsiasi lato usi comunque si casca, a parte un lato che è quello diciamo principale in verticale, che è un po' più stabile. Per metterla in orizzontale hai bisogno di fare delle mosse di lavori, così devi star a togliere lo stand e riabitarlo. È veramente stupida come cosa. È una cosa molto stupida come design. Però, detto questo, ci siamo tolti la parte più brutta. Ci sono delle cose belle, secondo me, dell'hardware di PS5, ovvero che le faceplate, cioè ci sono due cover di plastica laterali che sono assolutamente inutili ai fini della console. Sono per bellezza, diciamo, però li puoi togliere e metterne altri, quindi in futuro se faranno delle faceplate tipo nere, togli quelle bianche e metti quelle nere, hai fatto. Altre cose belle sono che ha, innanzitutto è silenziosissima pure questa, cioè che se qualcuno di voi ha avuto una PS4 originale o una PS4 Pro originale, cioè avete vissuto con un jet in casa praticamente per tutti questi anni, quindi sapete quanto è bello sentire una PlayStation silenziosa, cioè non sentire una PlayStation. Altre cose a livello di design che a me fanno impazzire personalmente, perché so quanto è difficile, quanto è da pazzi fare una cosa del genere. Dentro la PS5 c'è metallo liquido. Come, cioè, scusa? Per raffreddare il processore, per non farlo scaldare troppo, hanno dovuto metterci sopra un materiale con, cioè, che conduce tanto calore, che quindi è metallo liquido. Di solito tu, wow, sui processori metti pasta termica, che è tipo una pasta, no? Tipo una... C'è il Terminator dentro. La... Esatto, invece lì dentro c'è il T-1000, che in realtà è molto pericolosa, infatti ho paura che da un momento all'altro possa scoppiare, perché è una cosa molto... cioè che conduce anche l'elettricità. Stupendo. Ma parliamo della vera cosa bella del PS5, perché una volta che la PS5 l'hai nascosta da qualche parte per non vederla... Sì. Ci metti una coperta cosa che sopra. Vedrai, la cosa che vedrai tutti i giorni è il controller della PS5, che è la star della PS5, no? Tutti ne parlano di questo controller rivoluzionario, questo DualSense, perché è molto diverso dal DualShock, che è quella versione precedente. Ha, come aggiunte, ha il fatto di poter... Prima di tutto, vabbè, hanno cambiato un po' il design, vabbè, un po' più... ricurvo, un po' meno spigoloso, un po' più comodo, almeno per me, rispetto al DualShock 4. Ma le cose vere, i cambiamenti veri sono il rumble, cioè la vibrazione aptica, ovvero può vibrare in un modo che ti fa quasi sentire delle cose. Tipo, per esempio, c'è una demo dentro la PlayStation 5, c'è un gioco gratis incluso, che si chiama Astrobot, dove in un momento io avevo in mano una mitragliatrice che sparava delle pallette di gomma, tipo, e sentivo proprio, quando sparavo, sentivo proprio come se stessi sparando delle palline di gomma, cioè è difficile da descrivere, c'è proprio la sensazione. O c'era un'altra scena dove, tipo, dentro il controller c'erano dei robottini, quindi come muovevo il controller sentivo dentro i robottini che si cascavano, che si rotolavano dentro. Stai dicendo che ti fa sentire come Spider-Man? Ci arriviamo. In realtà, cioè, io ero molto eccitato da questo controller. Cioè, io quando... è uno dei motivi per cui ho preso la PS5. Cioè, sentire tutte queste persone che ne parlavano in maniera entusiasta, come se fosse la vera nuova next gen, avevo un sacco di aspettative. E devo dire che purtroppo la vibrazione aptica dopo un po' le ha deluse. Ci sono veramente poche situazioni dove ho detto, ah cazzo, che figata, come funziona bene questo feedback aptico. Che è un bene e un male, cioè, perché in un certo senso dici, ah, sparisce un po' nello sfondo, dopo un po' non te ne rendi più conto. Però l'altro dici, ma che serve? Cioè, nel senso... Se... Tu pensi magari che possa anche essere per il fatto che, siccome è una cosa che gli sviluppatori devono implementare nel gioco, magari... Non c'è stata ancora così tanta occasione di... No, perché io ho giocato giochi che lo usano. Vabbè, poi ci arriviamo comunque. Okay, okay. Secondo me l'haptic del rumble, quindi che c'è nei tuoi palmi, non sarà una rivoluzione, come non lo è stato per lo Switch, perché ce l'aveva anche lo Switch. Se ti ricordi i Joy-Con, se giochi tipo a 1, 2, 3 Switch, come si chiama quel gioco là? Sì, ho capito. Ci sono alcuni giochi che integrano questo rumble HD, lo chiamano loro, no? Questa sensazione più precisa per farti giocare meglio. E ci sono tantissime idee bellissime, secondo me, su Switch, tipo anche per i giocatori disabili che hanno problemi con la vista. È un sacco utile. Per me, però, appunto, come è passato un po' sullo sfondo, si chiama, giusto per i nostri ascoltatori, è One to Switch, il gioco a cui si riferisce. Per me passerà sullo sfondo anche questo. Quello che invece mi ha davvero soddisfatto, e penso che sia una caratteristica che doveva avere anche l'Xbox, è il trigger adattivo. Cioè, su Xbox One c'era questa cosa che su ogni trigger potevi sentire la vibrazione indipendentemente, no? C'era proprio la vibrazione sul trigger, che era bellissimo per i giochi di guida specialmente, no? Per capire una ruota che era su un... sulla... come si chiama? Come si chiamano quelle cose? Sullo sterrato? Bianche? No, ma quelle cose bianche e rosse. Purtroppo di Formula 1 di Nintendo. Quelle cose bianche e rosse. Sul limite, sulla linea. Non lo so, vabbè. Fuori strada. Se sente questo corso, Edoardo mi insulta. Praticamente ti permetteva di sentire vibrazioni delle armi, delle macchine, tutte queste cose qua, sul grilletto sinistro o destro. Sul controller Elite potevi anche modificare la corsa del trigger, quindi potevi dire quanto devo andare a fondo per registrare che sono arrivato in fondo, quindi potevi dire posso farlo più corto così sono più veloce, posso farlo più lungo perché così c'ha più precisione. Questo la Sony l'ha preso e l'ha portato a un nuovo livello, cioè veramente è incredibile, perché hai la vibrazione più precisa, quindi è già più precisa di quella che c'è su Xbox. Ma poi hai anche il trigger che può aggiustare molto velocemente in tempo reale la resistenza. Io ho visto come è fatto dentro ed è stranissimo che funzioni, perché in realtà è molto semplice il meccanismo, è tipo una rotella, c'è un ingranaggio che spinge una molla, cioè, vabbè, è difficile spiegarlo a voce effettivamente, potevo anche evitare di provarci, però c'è un meccanismo dentro che essenzialmente modifica velocemente quanto resiste alla pressione il trigger. Ed è stupendo. È una cosa incredibile. Cioè, non è che tu stai provando una sensazione per forza realistica. Non so come dirlo. Cioè, per me il problema dell'haptic è che ti vuol far provare cose che non riuscirà mai a farti provare. Cioè, perlomeno per come sono adesso. Invece il trigger è proprio... vuole farti giocare in maniera diversa. Cioè, quando tu lanci il ragnatela in Spider-Man, ti fa sentire come Spider-Man, ma non perché Spider-Man fa quel movimento. Quando tu premi sul trigger, tu non stai facendo quello che fa Spider-Man, però stai effettivamente facendo uno sforzo in più, e senti dov'è quello sforzo. È difficile da spiegare, cioè... Se qualcuno ha mai usato una tastiera meccanica, e so che è una cosa diffusissima che tutti hanno e non è per niente una cosa per i privilegiati, se qualcuno ha mai usato una tastiera meccanica sa che in alcune tastiere c'è un punto che si chiama il punto di attuazione o il punto di bump. Il punto di attuazione è il punto dove registra il fatto che hai premuto il tasto. Il punto di bump è un punto dove tu senti una specie di dosso. Cioè, senti che tu hai premuto il tasto fino a quel momento, c'è una piccola resistenza, e poi puoi premerlo fino in fondo. C'è spesso nei pulsanti tipo blu, brown, in molti pulsanti, quando tu hai un pulsante che tipo puoi spingere e c'è una molla e poi va su, oppure lo spingi, c'è una molla e resta giù, no? Sono molti pulsanti che funzionano così, tipo on off, no? Tu lo premi, certo, in fondo, una volta lo lasci e va e si ferma, poi lo ripremi, lo rilasci e torna su, no? Okay. Non so come spiegarlo. Una cosa del genere, cioè tu questi trigger li premi, a un certo punto c'è una resistenza, ovviamente se lo sviluppatore ha deciso di mettercela, ed cioè è difficile da spiegare, è spettacolare, non lo so, mi ha lasciato veramente, sono veramente entusiasta di questa forse ha avuto più impatto questa cosa su di te, se ci pensi è l'unico, forse non l'unico, però diciamo l'unico vero rivoluzione interessante sul sistema di input più che di output. Sì, è vero, è anche sì è un cambiamento in tutti e due i sensi, sia input che output, secondo me. Non lo so, mi ha veramente lasciato contento e entusiasta questa aggiunta. Okay. Quindi da un punto di vista puramente di hardware, se hai finito di dire tutto quello che dovevi dire sulla PS5, o hai qualcos'altro da aggiungere? No, perché diciamo che a livello di sound, di quella cosa del Tempest Engine, ancora non ho notato nulla di che. Cioè non mi ha entusiasmato quello che ho sentito, quindi vabbè. Ok, allora questa è la mia domanda da da pubblico, da osservatore esterno, da svizzero. Da un punto di vista puramente di hardware, allora, chi vince tra le due? A tua opinione. Allora, difficile. È difficile perché il mio cuore dice Xbox. Nel senso che tiro sempre Xbox a qualsiasi di queste domande. Cioè, chi vince tiro sempre Xbox. Lo so, ma devi essere direi... imparziale in questo, esatto, campo. Dovrei essere imparziale. E direi Xbox anche per discorso di potenza. Cioè, Xbox è più potente della PS5. Però sto cazzo di controller è meglio sul PS5. Quindi, cioè, di testa ti direi PS5 più che Xbox. Ok, interessante. Ci stai scrivendo? L'avete sentito qui da noi per primi. Secondo Jacopo, almeno per quanto riguarda l'hardware, il punto lo dà alla PS5. Almeno per ora. Almeno per ora. Xbox non farà uscire la sua... Il nuovo controller. Xbox Series 720. Quella... Ma, permettimi di introdurre l'altro argomento io. Abbiamo parlato di hardware fino a questo punto e direi che bisogna adesso parlare di quell'altro fronte su cui si fanno guerra queste console, ovvero i videogames, i titoli per cui... titoli disponibili per ognuna di queste console. Ma io parlerò un po' di due cose in realtà, perché vanno un po' a braccetto. Cioè, parlerò sia dei giochi, sia di qual è un po' la filosofia di queste due console. Assolutamente. Se non ti dispiace. Assolutamente. Sono qui per questo, Jacopo. Perché... Allora, parliamo un attimo di Xbox. È facile, non ci sono i giochi. Boh, finita, è stato un piacere. Grazie per aver ascoltato. Che giochi ci sono, ma non sono giochi che ti vendono una console, perché i giochi che ho giocato io su Xbox sono o giochi di vecchia generazione, tipo Forza Horizon 4, che ci ho giocato un botto, però vabbè, o appunto la Master Chief Collection, cose così. Oppure sono giochi minori, tipo Call of the Sea, che comunque a me è piaciuto tantissimo. Ci ho giocato, appunto, penso di averne parlato nella puntata precedente, ci ho giocato su Serie X. Diciamo, i giochi di nuova generazione, titoloni grandi, così, sono solo terze parti, tipo Assassin's Creed Valhalla, che sono sicuro che molti come me ci stiano giocando su Xbox Serie X. Perché vabbè, è stupendo, gira 60 frame al secondo, quasi 4K, eccetera. Però non ci sono esclusive per il momento. Ci doveva essere The Medium, che è un gioco horror che secondo me, tra l'altro, vende bene la nuova generazione, perché... Vabbè, The Medium, lo spiego velocemente, è un gioco dove in alcuni momenti ci sono due diversi mondi che tu puoi vedere. E questi due diversi mondi non sono tipo, uno è, che ne so, una visuale in 2D stupida, cioè sono due mondi fatti bene, cioè sono due mondi interi. È proprio stai guardando due versioni della stessa cosa, che è abbastanza difficile da fare con vecchie console. Infatti tipo in Dishonored 2, dove c'è una cosa simile, avevi tipo una piccolissima immagine dell'altro mondo, tipo 3x3, 3 centimetri per 3 centimetri, dove tu devi metterti gli occhiali, guardare bene. Invece no, lì è proprio metà dello schermo, così. Però, diciamo, il vero titolo che doveva uscire con la console, Halo Infinite, non è uscito, è sparito, è finito all'anno prossimo. Uscirà il 15 novembre, probabilmente, dell'anno prossimo. Vedremo se uscirà a questo punto, come dicevamo prima, come Cyberpunk, o se funzionerà, esatto, stavolta. Però è diventato di un anno, io, cioè, spero che un anno sia sufficiente per risolvere i problemi che aveva quel gioco, perché speriamo. Quando ho visto la scatola, cioè la scatola di Xbox Serie X, la scatola proprio quella che tu anche adesso puoi andare a un negozio e vederla, no? Perché ce l'hanno in tipo impilate per fare marketing, dietro c'è Halo Infinite, cioè nella scatola. io li ho cringato di freddo, questo lì, mi dispiace. Però vabbè, passiamo a PS5 perché ho più da dire sui giochi. Allora, uno degli altri motivi, a parte il controller, perché vabbè, dopo 3 ore di Astrobot, insomma, l'avevo provato, era giocare a Spider-Man e a Demon's Souls. Perché io sono un fan di Spider-Man, del primo Spider-Man su PS4 e del secondo Spider-Man su PS2, per chi se lo ricorda. E qui ho detto, no, cazzo, devo per forza giocare al nuovo Spider-Man. Volevi sentirti come Spider-Man, per un attimo. Volevo sentirmi come Spider-Man, ma... con tutta quanta la figaggine esagerata di un teenager afroamericano, come si dice adesso sull'internet. Questo è un meme di un tizio che ha recensito il gioco e ha usato tipo termini un po' cringy per descrivere Miles, perché il gioco appunto, nel gioco tu non sei Spider-Man A, sei Spider-Man, non sei Peter Parker, esatto. Ma sei Miles Morales, direi che... Che è lo Spider-Man, quello mezzo portoricano, mezzo afroamericano, che nei fumetti un po', non ho capito se ha sostituito Peter Parker o se lo ha... cioè, è andato un po' in parallelo. E guarda, non ci provo neanche io a seguire le storie dei fumetti per a sto punto. Per me, cioè, io non ho seguito i fumetti di Miles, ho... l'immagine di Spider-Man Into the Spider-Verse, che andatelo a vedere perché è stupendo quel film di animazione. Però vabbè, appunto è un mezzo sequel, che in realtà non è un sequel, è un'espansione del primo Spider-Man, perché è la stessa città ma d'inverno, a Natale. Giusto curiosità mia, scusami, ma ti serve il primo Spider-Man per giocare a questo? È tipo, come posso dirlo, hai presente Uncharted, quello là, l'espansione di Lost Abyss, o come cazzo si chiama? Sì, credo di sì. No, come si chiama? Vabbè, no. Insomma, è uscito un Uncharted dove le protagoniste erano due tizie, altre tizie. Una... Ah, The Lost Legacy, può essere. The Lost Legacy, grazie. È un gioco più corto, con lo stesso motore grafico più o meno, una storia nuova, però appunto un po' più corto, un po' più piccolo come gioco, qualche novità. Ma non è un Quindi non è veramente un DLC per cui ti serve il gioco base per giocare, no. Okay? No, Spider-Man aveva DLC, io l'ho giocato tutte e tre, tra l'altro, però erano solo DLC, cioè di storia. Non e ti sei sentito come Spider-Man in tutte e tre? Mi sono sentito come Spider-Man in tutte e tre le volte. E no, è molto carino come gioco questo qui, Miles Morales, Spider-Man, e mi ha fatto sentire come Spider-Man... Miles Morales, cioè, okay. è carino il gioco perché ha un sacco di mood natalizio, cioè molto natalizio come atmosfera, come va in giro, cioè cose che succedono, eccetera. È molto personale come storia, beh, quello Spider-Man sempre, cioè Spider-Man come si gira, oh zio, ah sei un cattivo, ah, ok, la nipote, che ne so, a capo di Amazon, cioè ogni persona cattiva è in qualche modo un familiare o qualcuno che conosci, e quindi è vero anche Miles Morales, però è bello perché letteralmente nella prima cutscene dove si vede il cattivo di Spider-Man, o uno dei cattivi, scusami, di Spider-Man, ho detto, ah, ma questa qua secondo me è questa. E 2 secondi dopo, ah, ma questa qua è questa. Cioè, nel senso, non c'è stato il momento dove ho detto, ah, oddio, Dottor Octopus è quello, è il mio professore Octavius, è così. Cioè, non c'è il momento di, ah, cavolo, dopo 5 ore ce l'hai fatta, sei arrivato a capire. Cioè, dopo letteralmente un minuto, questo qui, cioè, capisce chi è la tizia. Vabbè, comunque, okay. Questo è stato bello anche un po'... Giusto per fare un po' di flaming, li valeva i 70 euro? No. Ci sta. Io l'ho pagato tanto, ma includeva anche Spider-Man Remastered, che rigiocherò prima o poi. Ah beh, allora in tal caso ci può stare. Non valeva, cioè secondo me è un gioco da 30 euro perché è molto corto e a livello di aggiunte sì, le aggiunte ci sono a livello di gameplay, ma... Non abbastanza, cioè sono contento che non abbiano fatto un sequel vero. Okay. Perché prima di tutto molte cose, se non le sai già, cioè diciamo che se hai giocato lo Spider-Man precedente, il modo di affrontare molti nemici lo conosci già. Quindi il fatto che il gioco non ti spieghi cosa sta succedendo... Quindi pretendeva un po' che avessi giocato quello prima. Un po' pretendeva, però col passare del tempo la difficoltà andava un po' a scendere perché avevi talmente tante possibilità per, tipo, che ne so, diventare... Questo faccio un piccolo spoiler, però Miles come potere può diventare invisibile. Miles è un po' diverso rispetto a Peter Parker, che era un po' più avanzato come capacità, quindi... Ah, tutte le cose più o meno che poteva fare Peter, però può anche diventare invisibile, quindi a un certo punto diventa stupido, appunto, far istupidire i nemici, non farci capire nulla. Quindi è un gioco, secondo me, bilanciato un po' peggio del primo, come difficoltà. Ok, ok. Perché ha un picco all'inizio e poi va un po' a scendere. Anche come cose da fare, ovviamente ce ne sono di meno, però sono tutte molto divertenti, tipo c'è una missione dove devi trovare un gatto, poi alla fine c'è il gatto nello zaino, che è una cosa stupenda, puoi andare in giro con un gatto nello zaino che ti aiuta a ammazzare i nemici, e è molto bello, cioè è carino, è esattamente quello che mi aspettavo, non c'è troppa roba in più, è bellissimo da vedere perché... I riflessi nei palazzi sono fatti con il ray tracing, e qui potrei spendere un'ora a parlare di che cos'è il ray tracing, però è essenzialmente un modo per fare riflessi belli, per adesso lasciamola così. Quindi i riflessi sono corretti, l'atmosfera è fantastica, i personaggi sono sempre carini, i podcast che senti in giro quando stai già adesso, no, cioè è un gioco, dobbiamo chiedere alla Sony se mette anche il focolare elettrico tra i podcast, esatto. Tra JJJ e quell'altro, esatto. No, però è un gioco veramente dove, un po' per il joystick che dicevo prima, un po' per proprio quanto è divertente muoversi, io non ho mai usato il fast travel, il viaggio rapido, ma carino. Che è un peccato, perché in questo gioco il viaggio rapido dura un secondo, cioè tu premi e sei già lì con l'SSD, quindi un po' mi è dispiaciuto, però è talmente bello muoversi per New York con Spider-Man, cioè poi si muove in maniera diversa Miles, è bello. Parliamo di Demon's Souls, faremo un episodio a parte dove faremo un rant sui vari Souls e durerà, e durerà 6 ore come episodio, e lo faremo completamente in norvegese, penso, così è ancora più divertente da ascoltare. Demon's più criptico Souls, più... Demon's Souls mi ha sorpreso in negativo, nel senso che mi aspettavo un gioco stupendo, quasi alla pari di Dark Souls, un gioco che ovviamente, cioè, me lo aspettavo più, come dire, più grezzo di Dark Souls. Con meno quality of life, conoscendo le cose che mi hai detto tu su Dark Souls, come era all'inizio, e conoscendo un po' di cose che mi aveva detto mio amico a riguardo di Demon's Souls, mi aspettavo veramente poca quality of life, c'è un sacco di cose frustranti, così. Il motivo per cui mi ha sorpreso in negativo non è questo, cioè... Hanno migliorato molte cose, hanno migliorato per esempio il fatto del dodge che si può fare in tutte le direzioni, gli oggetti che non puoi raccogliere ti rimanda direttamente nel magazzino, diciamo, nello storage. Mm-hmm. Cioè, tutte quality of life cose. Queste in generale. Sì, tante cose hanno migliorato, da quello che so io perlomeno, poi magari hanno migliorato ancora più cose di cui non ho assolutamente idea, anche il design di alcuni nemici l'hanno reso più chiaro. Però la cosa che a me piace di più di Dark Souls, dei Souls-like, probabilmente, è i boss, sono i boss. Cioè è vero che a me in Sekiro piace pure combattere contro i personaggi normali, i mini boss, cioè Sekiro è un po' un caso a parte. Però quel momento in cui dici, cavolo, cioè ho battuto questo boss, cazzo, che figata, cioè appena lo vedi la prima volta ha un design incredibile, il combattimento, cioè è sempre qualcosa di interessante, ha sempre qualcosa, no? Anche quei combattimenti più brutti in Bloodborne, cioè, e di solito la curva di difficoltà è tale per cui magari inizi appunto che prendi le legnate in testa, poi alla fine arrivi che sei Dio, soprattutto se come me fai le build quelle barate tipo forza pura. Il fatto è che in questo gioco, anche quando ero scarso, cioè anche all'inizio quando ero scarso, nessun boss mi è rimasto impresso. Nessuno. Cioè, allora, il primo boss è carino. Come primo boss mi è piaciuto Phalanx, il primo vero boss. Phalanx, ci sta. È forse anche uno di quelli più originali, diciamo, del gioco. Sì, molto originale, effettivamente. È un boss che secondo me unisce un tipo di boss da Dark Souls 2 con un concetto più alla Dark Souls, soprattutto se è la prima volta che giochi. Non è facile, cioè non è... Non voglio dire non è facile, scusami, non è immediato. Non è un boss, è un boss che ha un bel design, ha un bel ritmo di fight, secondo me. E poi è bilanciato come boss per essere il primo. Comunque gli altri... Cioè ci sono boss che io non mi ricordo. Cioè nel senso... cioè è brutto da dire, però io ce l'ho finito adesso, tipo un giorno fa, e già alcuni boss mi sono scordati. Cioè non... Allora, alcuni boss, ok, erano tosti, erano complicati, tipo Man Eater. Però, cioè... perché è difficile? Ne sono due. Cioè, nel senso, come i gargoyle su Dark Souls. Cioè, un po', secondo me... Qui poi faremo un episodio a parte dove ne parleremo meglio. Un po' mi ha giovato aver giocato prima Dark Souls, perché ho affrontato questo gioco... sapendo più o meno cosa dovevo fare e come mi dovevo muovere. Cioè, questo gioco non l'ho affrontato con lo scudo in mano e le mani tremanti. Cioè, l'ho affrontato come, ah, ok, andiamo. Cioè, due spade a una mano, roll, cioè nel senso, molto, o la valo a spacca. E quindi, cioè, mi sono divertito lo stesso. Poi sapevo di dover usare la wiki, perché se non usi la wiki, cioè, finisci male. Quindi Fax Life era sempre aperto. Però, non lo so, cioè capisco perché chi ha giocato Demon's Souls anni fa non ha subito riconosciuto il genio che c'era dietro. Un po' perché appunto, secondo me, non era ancora matura come design la questione della difficoltà, eccetera, ma soprattutto per i boss, cioè il design dei boss. Non, beh, c'è un motivo bello, se... a rendere famosa la serie è stata Dark Souls e non Demon Souls. C'è assolutamente un motivo. E a livello pure visivo, sì, bello bello, ma appunto neanche lì mi ha alla fine... Io devo ammettere che dal livello visivo, da quello che ho visto sempre da esterno così, sono rimasto abbastanza sbigottito, sì, da tutto, sì, quanto. È bellissimo, quindi... è spettacolare, ma non è... non c'è... Però, cioè, non so... No, di pure, aspetta. È difficile, è un'evoluzione, capito? Cioè, Demon's Souls mi è sembrato più un'evoluzione di Spider-Man, anche se Spider-Man in realtà è l'evoluzione, perché cambia tanto vedere il riflesso corretto dei palazzi che c'è intorno e di Miles rispetto a... Ah, ok, è Shadow of the Colossus, però ha fatto meglio. Cioè, capito? Cioè, ok... Perché proprio è difficile, cioè non puoi cambiare il design di un gioco, non puoi cambiare no, certamente. La tecnologia. Cioè, erano un po' limitati secondo me in quello che potevano fare a livello di aggiunte hardware. Vabbè, comunque, bellissimo comunque. Cioè, appunto, sono rimasto un po' deluso, però sicuramente prima o poi ci rigiocherò, come rigiocherò a Sekiro e agli altri Souls. Però appunto volevo un attimo parlare anche, prima di finire questa cosa più strutturata, appunto giochi eccetera, il valore, cioè qual è il valore aggiunto che c'è nell'acquistare una console piuttosto che l'altra? Secondo me, ok, per PS5 c'è il discorso giochi, e ti dico già che qui vince anche solo per Miles Morales. Quindi un altro punto a PS5, però c'è anche il discorso qual è, cioè perché dovresti comprare una console più che l'altra, cos'è che ti dà in più oltre ai giochi, oltre all'hardware? E per me lì vince Xbox a mani basse al momento, perché ha una cosa che si chiama Game Pass che su PlayStation non c'è. Cioè, poter pagare 10 euro al mese o 15 se vuoi quello ultra mega figo per avere tutto, cioè avere veramente centinaia di giochi anche stupendi come Forza Horizon, Master Chief Collection, Call of the Sea, cose così, al lancio, cioè per questo, cioè, io capisco che chi non ha un PC da gaming, una serie S ha senso perché costa poco, con 10 euro al mese te ce la cavi per avere tutti questi giochi, cioè io ho giocato in un mese Sea of Solitude e Call of the Sea senza pagarli, cioè pagando il Game Pass. Cioè, ho giocato Forza Horizon 4, che è un gioco AAA, dall'inizio alla fine, senza pagarlo. Cioè, è imbattibile al momento come proposta, secondo me, di valore. Cioè, se veramente non... Cioè, allora, se non puoi fare a meno, come me, che sono stupido, di Spider-Man... Scusa, di Spider-Man o di Demon's Souls, ok. Altrimenti, cioè, hai giochi Electronic Arts, tipo appunto, vabbè, vari FIFA, eccetera, hai Call of Duty, hai tutti questi giochi che puoi provare o che sai che ti piacciono, tipo appunto Halo o Forza Horizon o tantissimi giochi AAA diciamo, di terze parti. Boh, non lo so, per me è una cosa importante. Beh, come dicevo prima, io tendevo sempre di più a Sony come fronte su cui schierarmi, però devo ammettere che qua ti do assolutamente ragione, che se la forza di Sony sono le sue esclusive, i suoi giochi unici nel suo genere, perché ricordiamo che ci sono tantissimi titoli che sono nati su PlayStation, parlavamo appunto di Soul prima, di tutti i giochi della From sono nati lì, e quindi l'esclusività di PlayStation rimane assolutamente punto di forza, e Microsoft penso abbia trovato il suo punto di forza adesso, ovvero questa sua possibilità, sfruttare la possibilità di offrire questo catalogo assurdo di giochi ad un prezzo assolutamente abbordabile, e forse è quello, cioè se la PlayStation aveva trovato la sua forza nell'esclusiva, adesso la Microsoft ha trovato la sua forza nel Game Pass. Quindi ci ricordiamo, includerà anche i giochi Bethesda, così, cioè se davvero, perché poi anche dici Souls, no? Non sono più esclusiva. Final Fantasy Vero. Non è più esclusiva, Yakuza non è più esclusiva, cioè sono tanti giochi, tante serie che hanno lasciato il campo dell'esclusività. Ovviamente poi rimangono in casa Sony, cioè nel senso rimangono come base in casa Sony, tipo Final Fantasy 16 uscirà prima su PlayStation 5, Final Fantasy 7 uscirà, cioè esce un anno dopo su Xbox, mo esce, aprile uscirà probabilmente. Cioè è innegabile che alcune serie rimarranno sempre in casa Sony, cioè appunto Spider-Man non lo toglieranno mai. Probabilmente God of War pure è un motivo per cui appunto se qualcuno, e ce ne sono tanti, è fan di queste, segue queste serie, ci sta che continua su PlayStation, però boh, se non hai un PC, perché appunto il problema e anche il vantaggio, l'altra cosa che volevo dire è che Xbox ormai è una piattaforma, è quello che dicevo prima, no? Cioè si contendono lo stesso pubblico, è vero, però hanno ormai due visioni divergenti, o almeno per ora sono divergenti, poi magari in futuro Sony correggerà. Xbox è un ecosistema ormai, cioè tu hai Xbox, ma non vuol dire niente, non è più una console, è un ecosistema di Game Pass che puoi giocare su Xbox, puoi giocarlo su Android tramite xCloud, puoi giocarlo adesso anche su PC, tramite xCloud o scaricando i giochi, cioè è un ecosistema, cioè tu è come Netflix, è ovunque, è una cosa che c'è ovunque, è una piattaforma. E secondo me con l'acquisto di Bethesda, come dicevamo l'altra volta, ha un po' trovato il lo Stranger Things, cioè il prodotto di punta che vende un po' la piattaforma. E quindi questo, cioè volevo dire che il motivo secondo me per comprare un Xbox non è una cosa come l'hardware o una cosa come i giochi, cioè è proprio l'ecosistema, capito? E in questo senso sono molto Apple in realtà, cioè è molto, molto Apple come cosa. Quindi dovrò scusarmi con Salla. Volevo fare un po' di commenti a caso, alla fine è anche se... Vai, quick round. Se tu hai qualcosa, vai prima tu, se hai qualche commento da fare su... Allora, l'unico commento che, con cui termino la mia parte in questa puntata, perché, come avete visto, cioè, volevo lasciar parlare più Jacopo, che ha vissuto con mano l'esperienza delle nuove console, mentre io sono rimasto ancora per il momento osservatore in panchina. Era che appunto, non so, finora io personalmente ho sempre guardato di più al banco titoli per una console rispetto sempre ad hardware e cose del genere. Sarà che sono meno pignolo sotto quel punto di vista, sarà che mi interesso di meno, ma la Sony per me ha sempre vinto per via dei titoli unici che offriva rispetto alla Microsoft. E poi, come dicevo in altri podcast, gli sparatutto non sono mai stati per me, quindi Halo, anche lì apprezzo tutta l'eredità che c'ha dietro, tutta la storia, ma io ancora non sono riuscito a giocarne uno per bene, perché... Vabbè, non, ne seguirai con noi. Esatto, giusto, seguite la serie, il canale YouTube di... In arrivo su YouTube. Poi. Quindi diciamo che io, da osservatore esterno, quello da cui ho imparato oggi, ascoltando Jacopo, è che è, a differenza degli altri, delle altri grandi scontri, delle altre grandi battaglie campali, no? Che ci sono state all'uscita di ogni nuova console per le due grandi case, devo ammettere che più di ogni altra volta a questo giro effettivamente potrei essere più indeciso su qual è la mia console. Perché sì, PlayStation ha dei titoli in esclusiva allettanti. Demon's Souls prima di tutto, però anche lì Demon's Souls alla fine è una grande esclusiva, però se ci pensiamo è comunque un gioco di 11 anni fa ormai. Ah, quindi sì. Se uno ha già giocato Demon's Souls, se non c'ha troppa voglia di rivivere l'esperienza in super mega ultra dettagli con la panza dei demoni che traballa quando li colpisci. Ah, è vero, si spegne quel boss, me l'avevo scordato. Se lo può anche, cioè voglio dire, non si perde più nulla di così particolare. E effettivamente questa cosa del Game Pass dell'Xbox, per la prima volta devo ammettere che è molto molto allettante. Se uno c'ha... L'unica cosa che mi frena più che altro è chi cazzo lo trova il tempo di giocare tutti i titoli del Game Pass. No, però... non è che devi giocarli tutti, però... Ovviamente, era giusto per dire. Se capita un mese che hai un po' più tempo, dici, ah, proviamo un po' questo gioco che è, e invece poi scopri che è il gioco preferito di sempre, che si chiama Outer Wilds, per esempio, Marco. E mi sto attrezzando per... per cui sì, cioè, effettivamente sono ancora, non so, ancora la Sony mi attira sempre ancora un po', perché sono curioso di vedere anche quello che sta per uscire, perché purtroppo lì c'è la cosa del conosco la mia From Software, se deve far uscire qualcosa, poi purtroppo gli anelli di certo tipo usciranno, forse sono... Beh, chi lo sa, lì si vedrà, però è tutto, quello è speculazione, pure. Quella è speculazione, vedremo. No, più che altro se farei un PC da gaming, secondo me, e qui mi piange il cuore a dirlo, ma ha più senso una PS5, perché è più probabile che... È vero anche quello, c'è da considerarsi che chiunque sia in possesso di un buon PC da gaming Oddio, un voto completo. Il Game Pass funziona sul PC? Sì, funziona, sì, ha funziona. Dei giochi diversi, cioè non è esattamente gli stessi, però più o meno sono gli stessi, diciamo. Esatto. È vero anche quello, se uno si fa un PC, la PS5, con la PS5 completa la collezione, no? Si fa, come dicevamo prima, Nintendo più Xbox PS5, in questo caso PC più PS5, senza non c'è bisogno della scelta. Però devo ammettere che di solo console, devo ammettere che questo giro è veramente assurdo come la Microsoft abbia rimontata, perché per me non era mai stata così non in testa, ma come si dice? A pari. C'è un termine che sto cercando e non mi sta venendo. Testa a testa sì. Con la PS5. Sì, cioè diciamo al lancio della 360 la Microsoft era evidentemente in vantaggio. Tanti motivi, vabbè, il prezzo, la facilità di sviluppo, così. Al lancio della One, la One era morta, cioè nel senso è partita già morta. Ma davvero tanto morta. Questa volta invece, cioè appunto, secondo me la Microsoft soffrirà in eterno i peccati appunto della One, nel senso che purtroppo secondo me si sono bruciati quella che poteva essere una generazione alla pari con la Sony. E se la sono giocata per sempre, cioè nel senso la Microsoft non tornerà mai secondo me ad essere la leader come è stata ai tempi del 60, però appunto non voglio essere troppo definitivo su questo, magari faranno qualcosa di incredibile con i nuovi studi, però appunto guardando al futuro adesso con tutti gli studi acquisiti da Microsoft, con tutta questa roba del Game Pass, con la console più potente sul mercato, con la serie X, cioè la Microsoft è in una buona posizione, la migliore posizione possibile, diciamo, considerata la vecchia generazione, e anche la Sony, cioè anche la Sony ha un sacco di case con un sacco di prestigio, cioè il futuro sembra un buon futuro per entrambe, fortunatamente. E ci sarà un nuovo Animal Crossing in futuro per la Switch, sicuramente. Allora, anche qua, vedi, cioè, anche con questo qua lo stanno continuando a espandere, aggiornare. Animal Crossing durerà, esatto. Mi sa, durerà per un po'. E questo è quello che volevo dire io sull'ultima console war, anche se poi devo aggiungere una cosa alla fine, ma me la tengo per la fine, prima del nostro momento preferito, ma me la tengo per la fine. Allora, adesso... No, dilla tu, dai, parti con Lightning Round. I miei round. Commenti a caso l'ho fatti. Cioè, erano questi? Erano quelli che ho detto in risposta a te, cioè non avevo niente, volevo solo sapere alla fine, in questa guerra, dove si posiziona a questo punto il nuovo arrivato, che è la console della KFC. No, perdone, non è una console, è una on-sole, perché la KFC on-sole. Giusto. Giustamente, perdonami, ma doveva essere citata perché, questa cosa. Per chi non è informato, la KFC console è una console che ti viene caldo il pollo. È incredibile. Potrebbe essere veramente il futuro del gaming questo. È il futuro del gaming, sì, che tiene caldo il pollo. È incredibile. E io non ho ancora capito, questo sono proprio io che non ho capito se è stato uno stunt pubblicitario o se veramente esiste sta cosa, e soprattutto che giochi ci sono. Cos'è, un PC? È un PC. Tu ne sai di più? O... È un PC custom. PC? Ah, ok. Sì, sì. Da quello ho capito, sì. Meno male, perché per un attimo pensavo di essere passato attraverso un portale per un'altra dimensione. Ok, siamo arrivati al momento che tutti sempre aspettano. Sigla! Kept you waiting, huh? Dove sta sigla che prima o poi metteremo in live, perché mi sono rotto il cazzo ad aspettare in silenzio. Bene, il titolo dell'episodio è War Never Changes, ma noi sappiamo dal nostro amico Jim che War has changed, cioè la guerra è cambiata. Vogliamo parlare di Metal Gear Solid 4, da cui viene questa citazione anti Fallout 3. War has changed, Marco. Perché parliamo di Metal Gear Solid 4? Me la tiri così. Io ero rimasto che parliamo di che parla, avremmo parlato di Metal Gear in generale come, come dire, titolo di punta su cui penso molte persone abbiano basato la loro scelta tra Xbox e PlayStation al momento dell'acquisto. O mi ricordavo male? No, no, ci sta, però volevo parlare della tech demo di Metal Gear Solid 4 che doveva, che doveva vendere la, la PS3. Cosa e faceva che... più schifo del gioco finale, cioè era più brutto del gioco finale. Questo, come un brutto... Famoso... Come, no, cioè... come, scusa, Kojima ha fatto una cosa brutta, no, c'è un errore. Allora, scusami. Il gioco finale è però più bello, quindi vedi Kojima si migliora sempre. No, ma Kojima in realtà vogliamo dire che ha sempre portato avanti la grafica, ha sempre venduto console, secondo me. Cioè, è sempre stato un esempio di giochi che faceva di come fare giochi belli, giochi che sembrassero quasi avanti, no? Come, come grafica di un'altra generazione, tipo appunto Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, anche il 4 in parte... Il 5, cioè... Il 5 era assurdo già per... Ancora ci penso, cioè, per quando è uscito il 5 è assurdo graficamente, cioè, veramente assurdo. Anche come, come stile di... cioè, proprio visivo, come muoveva la telecamera, come... C'erano effetti di luce e materiali, cioè, incredibile quel gioco. Anche Death Stranding non scherza come... cose con i paesaggi, soprattutto, secondo me, che... È vero, però quello... Diciamo che si è un po' appoggiato a... Sì, c'aveva il nuovo engine. Sì, sì, aveva il già esistente. Invece, diciamo, con il 5, secondo me, è stato lui a forzare un po' a... Purtroppo a buttare soldi su... su Kojima. Kojima. No, ma lui ci tiene molto. Cioè, mi ricordo quando parlava un po' di quanto... Di quanto tempo hanno buttato, cioè hanno impiegato a... A ottenere il giusto effetto visivo della luce che rimbalza su un muro verniciato, sulla quantità o su di... i seni di Quiet, cose del genere. Marco, no, siamo sempre positivi. No, vabbè, sì, cioè ha un po' troppo, come si dice, un po' troppo attenzione per le tette, per queste cose, ma ha anche altrettanta attenzione per i fulmini. C'era un tizio incaricato solo di fare fulmini in Metal Gear Solid 5. Io mi immagino il curriculum di questa persona. E... Fulmini. Fulmini, fulmini, fulmini. Che va fuori quella tipo unica volta all'anno, incontra qualcosa, cosa fai? Io faccio i fulmini. Puoi chiamarmi Odino. Esatto, tipo Twister ma con i fulmini. Non Odino, perché ho detto Odino, volevo dire Zeus, poi vabbè, perdonate questo lapsus. Thor, dai, Thor. Cioè... È interessante secondo me quanto, cioè, una console, la potenza che ti dà, le cose che ti dà come a livello di risorse, le puoi davvero spremere a tal punto, le puoi davvero, cioè, usare in maniera... assurda per creare una cosa che sembra di un'altra generazione. Cioè, veramente, io ancora non ho idea di come faccia Metal Gear Solid 5 a girare su PlayStation 3. Io non ho idea. Cioè, non so come... cioè, è veramente magia. Cioè, poi la gente dice, vabbè, ma che ti aspettavi Cyberpunk su console? E qui torniamo al discorso iniziale, facciamo, chiudiamo il cerchio. Cioè, ragazzi, Cyberpunk su console... di vecchia generazione, ma che in realtà non è vecchia, è ancora corrente, cioè, ma Metal Gear Solid 5 su PS3, ma stiamo scherzando, cioè, nel senso, è una cosa cioè, fuori di testa quel gioco per quella console. Cioè, PS3 è la console di Demon's Souls, oh, se guardi Demon's Souls sembra, cioè, effettivamente. Ovviamente dico l'originale, cioè l'originale di Demon's, certo, Souls, è... No, abbastanza orripilante da quello, vuoi dire. Mamma mia. Poi, cioè, non solo fa schifo, ci hanno pure spalmato il burro sopra. Cioè, proprio c'è una smierata. Hanno aperto tutto, hanno smarmellato. Sì. Hanno smarmellato tutto. E vorrei aggiungere solo che Kojima è la, come dire, è la riprova ultima che le esclusive non si possono sottovalutare come cosa. Perché come punto di forza delle console, perché ogni tanto io l'ho sentito anche dire, vabbè, qualche gioco esclusivo, però anche l'Xbox ha robe interessanti, eccetera, eccetera. Vero, sì, però ci sono... Se però poi escono giochi come la saga di Metal Gear, come vedi Death Stranding, vedi God of War, vedi tutte queste altre cose... No, è vero, sì, sì. Non... Ah, quello che ha creato un po' quella cultura, secondo me. È uno di quelli che ha creato questo concetto del pubblico di PlayStation come marchio, capito, con un pedigree di developers. Cioè, Metal Gear Solid 1, ma soprattutto, secondo me, Metal Gear Solid 2. Che sì, poi c'è il 2 e il 3 sono usciti su Xbox, eccetera, però c'è il 2 veramente ha venduto la PS2. Cioè, uno di quei titoli che dici, cazzo, cioè, incredibile. No, è una cosa mai vista prima, i ghiaccioli che si sciolgono. Cosa vai dicendo? Cioè, anche il 4, ok, però il 4 secondo me è un po' di meno. Per me veramente quello che ha venduto quell'idea che dici tu è il 2. Cioè, che ha cominciato questo percorso che poi si è evoluto con la PS3, Uncharted e God of War. Poi nella PS4 è arrivato un po' è vero, alla anche fine. Uncharted è esclusiva, me l'ero dimenticato. Uncharted è esclusiva, ma cioè, è iniziato secondo me da questo. Cioè, Metal Gear Solid 1, Crash Bandicoot... Così poi siamo arrivati a Uncharted, The Last of Us, God of War. Cioè, è stato tutto un... Secondo me un'evoluzione di pedigree, di percezione. Va bene. Va bene, quindi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Fate l'amore, non fate la guerra. comprate Xbox perché è meglio. O se volete avere la risposta giusta è compratele entrambe, ma anche se sappiamo che forse di questi tempi non è così facile. Quindi vi ringraziamo per averci ascoltato. Io ero Marco. Io ero Jacopo. Ancora. Alla prossima e continuate a giocare. Ciao ciao.